Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. I giorni passano e mi accorgo che quello che passa a me è solo un microfono. I giorni passano e mi accorgo che mi prendo bene solo sesso sul microfono. E non ci butti giù, ci trovi dove il blu del mare sta col blu del cielo. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Abbiamo aggiunto un tocco di musica in avvio con questo rap Check One Two di Tenco e Scriba. Dalle parole forse faticherete a capirlo, ma se cercate il video su YouTube comprenderete presto come questa canzone connetta virtualmente decine di connazionali espatriati che si sono prestati al gioco cantando e rappando ai quattro angoli del pianeta sulle note del motivo. Davvero una simpatica iniziativa. California e startup tornano oggi in primo piano nella nostra trasmissione e, come vedremo, i ponti dell'innovazione con l'Italia sono sempre più numerosi. Torneremo anche a dare un po' di interessanti numeri sull'immigrazione dal nostro paese. Infine, spazio, come di consueto, alle vostre lettere. Ma cominciamo con la frase della settimana, oggi copyright di Riccardo Zacconi, imprenditore e fondatore di King Digital. Zacconi ha venduto la sua azienda per quasi 6 miliardi di dollari ad Activision. Al Sole 24 Ore ha dichiarato: l'Italia deve investire di più nella digitale, sto combattendo per questo, ma non sono contrario alla fuga dei cervelli. Andare all'estero è fondamentale per imparare. Chi vuole fare un'impresa tecnologica deve andare in Silicon Valley, a Londra, in Germania, imparare tutto e poi uscire, costruire un team di persone con esperienza e realizzare il proprio sogno di impresa. Forse, restando nell'ambito impresa, tema che fa da sfondo a questa puntata, è anche una questione generazionale. Afferma l'Università Bocconi, nell'ultimo quindicennio solo il 6,7% delle aziende familiari ha realizzato almeno un'acquisizione contro il 9% di quelle non familiari, dati comunque molto bassi. Più preoccupante è il fatto che l'età media dei leader delle aziende familiari italiane resti elevata e che, con l'età dei leader, peggiorino anche le performances. Il 22,6% ha oltre 70 anni e solo il 5% meno di 40, con le aziende gestite dai più anziani che registrano un tasso di redditività del capitale proprio inferiore di circa un punto rispetto alla media, mentre quelle gestite dai più giovani mostrano un risultato migliore di 2 punti. C'è però anche un'Italia giovane che sta portando avanti il cambio generazionale nell'innovazione e lo fa, perché no, anche all'estero. Era qualcosa che volevo fare da sempre, quindi cercavo solo di farlo al momento giusto, quando appunto avevo l'idea giusta, il team giusto per fare il prossimo passo, per non parlare comunque di avere anche i documenti giusti, cioè la green card che comunque ti permette di vivere in America quanto vuoi, aprire una tua azienda. Vincenzo Belpiede, 31 anni, è uno startupper basato in California, della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Il 50% dei neolaureati italiani di età compresa tra i 24 e i 28 anni sogna all'estero. A spingere i nostri giovani verso l'emigrazione è la sfiducia di trovare un lavoro all'interno dei confini nazionali. Lo rivela un'indagine dell'associazione Donne e Qualità della Vita, che ha intervistato 1000 laureandi, scoprendo che solo il 33% è speranzoso di riuscire a immettersi nel mercato del lavoro nazionale. Il picco tra gli aspiranti espatriandi si registra nelle discipline umanistiche, motivo prevalente per 2 su 3, la scarsa meritocrazia in Italia. Ma dove vanno gli italiani che emigrano? Ha provato a fare il punto la ricercatrice Camilla Gaiaschi, che ha pubblicato la sua ricerca con i quaderni di Fondazione Feltrinelli, arrivando a un'inquietante scoperta, certificata peraltro dalle statistiche ufficiali. Aumentano i connazionali che emigrano, mentre la penisola risulta sempre meno attrattiva per gli stranieri. Sentiamo i dati a partire da quelli sull'emigrazione. C'è stata una crescita esponenziale negli ultimi anni, negli anni della crisi, soprattutto più 146% dal 2007, i flussi in uscita degli italiani. Nel 2013 dei 125.000 uscenti, 2/3 sono italiani, perché poi c'è anche la parte di stranieri, no, che ritorna al paese d'origine, di cui poi potremo parlare, ma 2/3 sono italiani. E a differenza degli anni 90, appunto, soprattutto con gli anni del 2000 e soprattutto con gli anni della crisi, si sono accentuate le partenze dal nord, quindi a partire il giovane del nord. Sono cambiate le mete, no, anche negli anni della crisi. Se uno va a fare la analisi delle variazioni percentuali delle mete negli ultimi 10 anni, 2003-2013, si vede che ci sono nuove mete, cioè non si va più a New York, non si va più a Francoforte, non si va più a Sydney, si va dove? A Parigi, a Bruxelles e a Londra per quanto riguarda l'Europa, e si va nelle nuove mete, nei paesi in forte crescita, quindi Dubai e soprattutto Shanghai, quindi sono aumentati i flussi ma sono anche cambiate le mete in sostanza, ecco. Mentre invece l'Italia purtroppo attrae meno chi vuole venire a lavorare qui, di cui ci sarebbe anche chiaramente bisogno, soprattutto parlando di capitale umano qualificato. Sì, sì, assolutamente. È il terzo anno consecutivo di trasferimenti anagrafici dall'estero all'Italia in calo, cioè sempre meno stranieri arrivano in Italia. E insomma, la cosa interessante è però che cresce invece il numero di stranieri che se ne va via. Quindi l'Italia appare poco attrattiva per gli stranieri. Sì, è un paese che sa sempre meno accogliere da fuori e non riesce ad allocare il capitale umano che ha formato al proprio interno. Emigrare, ma dove? L'associazione Internations, che riunisce gli espatriati ai quattro angoli del pianeta, ha diffuso la lista delle top expats destinations. In cima Ecuador, Messico e Malta, Italia solo al 58esimo posto. L'inchiesta ha riguardato 14.000 espatriati. I parametri presi in considerazione sono condizioni di vita e felicità nella scelta di espatrio. Attenzione però alle città col più alto costo della vita per gli expats. Secondo l'indagine Mercè, a primeggiare è Luanda, capitale dell'Angola, e a seguire Hong Kong, Zurigo, Singapore e Ginevra. Dalle regioni, l'Università di Udine lancia l'allarme, il Friuli Venezia Giulia presenta una popolazione con sempre più anziani e sempre meno giovani brillanti interessati a restare. A influire sulla demografia la fuga di cervelli, giovani under 30 che scelgono l'estero per studiare e lavorare. Oltre la metà degli ingegneri laureati all'Università di Genova lavora oltre confine. Lo rivela una ricerca Alumni ISICT sui laureati del settore ICT. Il 52% tra i migliori laureati di ingegneria genovese ha compiuto almeno un'esperienza di lavoro all'estero, il 65% vi ha studiato, il 43% è impiegato attualmente in un altro paese. Neanche chi lavora in Italia non esclude la possibilità di emigrare. Seconda edizione per Primi Passi in Germania, guida per un primo orientamento online sul sito dell'ambasciata italiana di Berlino. Tra i temi, cosa fare per trovare alloggio e lavoro e come essere in regola con tutti i documenti in terra tedesca. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta nell'incubatore per eccellenza a livello mondiale, la Silicon Valley. Ma cogliamo l'occasione anche per aprire un ponte con l'Italia. Nome: Vincenzo. Cognome: Belpiede. Età: 31. Città di origine: Cerignola, provincia di Foggia. Studi: Collegio Internazionale a Roma, la St. Stephen's e poi Bocconi 50. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2007. Per andare dove? Helsinki. Perché? Ho iniziato a lavorare in Nokia. Quale lavoro svolge attualmente? CEO e cofondatore di Stellup. Dove? San Francisco. Tornerai? Torno sempre e un giorno spero di tornare in maniera più fissa. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Sono nato e cresciuto in Puglia, ma da quando ho 15 anni mi sposto costantemente in nuove città o nazioni per motivi di lavoro, sia per necessità che per desiderio di conoscere il mondo. Vincenzo, come racconteresti la tua generazione globale e mobile in poche parole? Qual è il vostro campo di gioco? Come hai detto tu, mobile, globale, bisogna sapersi muovere in maniera molto veloce, come insegna che cosa non esiste più il posto fisso, però questa è veramente una benedizione per noi giovani. Bisogna imparare a ricominciare tutto da zero, in nuove città, in maniera veloce. La dimensione internazionale ce l'hai nel sangue, studi in un collegio americano nel centro di Roma. Cosa ti ha insegnato quell'esperienza? Che non ero per nulla internazionale rispetto ai miei amici. Loro tutti parlano già 3-4 volte anche 6 lingue, avevano istituto in altri tanti paesi, quindi dovevo fare molto catch up. D'altra parte, avere delle solide origini che ti rende più forte anche da ragazzino era un vantaggio che avevo rispetto ad alcuni di loro magari. Allora, nonostante tutto, nonostante il contesto internazionale avesse stuzzicato in te una grande curiosità, opti per restare in Italia a studiare all'università. Perché e cosa, per la precisione? Sì, la Bocconi aveva appena iniziato dei corsi in inglese, per me era fondamentale studiare in inglese, l'altra alternativa era l'Inghilterra. I corsi erano non solo in inglese ma anche come età studenti internazionali e quindi ho cercato di abbinare appunto il brand alla Bocconi, mi piaceva studiare economia e rimanere in Italia, alla fine è stato ottimo. Per te, Bachelor e Master in International Management con 4 esperienze all'estero. Al di là del dove, quale straordinario valore aggiunto hanno portato alla tua formazione? Il primo è stato uno scambio a Città del Messico per 7 mesi, poi uno stage all'ambasciata a Belgrado. Entrambe queste esperienze hanno portato molto valore dopo, perché da Città del Messico abbiamo avuto 2 investitori e parte del nostro team è a Belgrado. Poi ho fatto anche delle esperienze alle Nazioni Unite a Ginevra, lì ho capito che devo per forza focalizzarmi in tecnologia, qualcosa di più veloce, e quindi ho finito l'ultimo scambio, il doppio master, a Helsinki School of Economics. Voto finale all'esperienza di studio universitaria in Italia? Altissimo per quanto riguarda la possibilità di fare esperienze all'estero, però diciamo che c'è tanto da migliorare sul punto quanto riguarda gli alumni. A quel punto siamo nel 2007, alla vigilia dello scoppio della grande crisi, e devi scegliere cosa fare: restare qui e cercare opportunità nella penisola o andare all'estero. Cosa scegli? In quel periodo era impossibile trovare un lavoro fisso in Italia, comunque un ben pagato, più di 600 euro al mese, ma a parte i dati economici c'erano sicuramente più lavoro all'estero, quindi ho deciso di andare in Finlandia, dove c'era tantissima opportunità dal punto di vista di tecnologia. Poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. In Nokia approdi con un programma di leadership che ti porta ogni semestre in un paese diverso. Dove vai e quanto questo ti porta a crescere professionalmente? Tantissimo, sono stato prima in Finlandia, i primi 3 mesi nei quartieri generali, 2007, proprio quando lanciò iPhone, poi da lì in Germania 6 mesi per costruire nuovi telefoni, poi nel 2008 a Pechino durante le Olimpiadi, ancora un altro telefono per China Mobile, poi sono ritornato in Finlandia nel nord, vicino al circolo polare artico, a Oulu, poi mi hanno rispostato l'ultimo step a San Diego in California, da lì sono rimasto, adesso sono più di 7 anni che sono in California. Ti sei quasi trasformato in un bagaglio, ma tra l'altro, questo è un salto che segnerà la tua carriera, ti sposti a un certo punto, l'hai detto tu, in California, negli Stati Uniti. Al di là delle ovvie questioni climatiche e ambientali, perché scegli di emigrare oltreoceano? Tutti dicevano che comunque la California è il posto più avanti, e stando lì e mi sono andato a visitare poi Silicon Valley da San Diego, mi sono reso conto che appunto il gap era gigante in termini di investimenti, di start-up, di grosse aziende che ti comprano, sono veramente molto più avanti. Naturalmente il mio sogno era sempre a un certo punto di fare start-up, di fare azienda. Tra l'altro, in quella che diverrà Nokia Microsoft, arrivi a essere il capo globale di App Social e ti sposti a San Francisco, piena Silicon Valley, maturando la decisione che cambierà la tua vita, lasciare il lavoro, il posto fisso, se vogliamo, e diventare start-upper. Al di là della passione che ci hai già raccontato per fare impresa, qual è stata la molla che in quel preciso momento ti ha fatto dire ok, ora ci provo? Era qualcosa che volevo fare da sempre, quindi cercavo solo di farlo al momento giusto, quando appunto avevo l'idea giusta, il team giusto per fare il prossimo passo, e non, per non parlare comunque di avere anche i documenti giusti, cioè la green card che comunque ti permette di vivere in America quanto vuoi, aprire una tua azienda. Quindi bisogna farlo, è tutta tanto una questione di timing, farlo al momento giusto. La mia visione era creare una nuova azienda che aiutasse tanti giovani expats che, come me, cambiando città e nazione in continuazione, avevano bisogno di costruirsi nuovi contatti ogni volta. Nasce l'idea di Stellup, la tua azienda, ce la spieghi? Esatto, quindi la nostra azienda, il nostro team, noi praticamente, non solo io ma anche altri miei colleghi, ho viaggiato tanto, ogni volta che ti sposti devi creare un network, non sai da dove iniziare a volte, quando invece magari hai fatto delle università di alto livello, hai lavorato in grandi aziende e potresti utilizzare quei networks per conoscere nuove persone. Su Stella portiamo un'interfaccia grafica molto simpatica e accattivante persone vicine a te, delle tue università, per poi andarla a conoscere e creare nuovi rapporti. In brevissimo, come si crea una startup in Silicon Valley a livello pratico? È facile? È molto più facile che creo in altri paesi, perché ci sono avvocati e studi legali che ti permettono di fare tutto senza dover pagare nulla fino a che non hai Series A. Series A è, diciamo, il livello di finanziamenti che va oltre $1 milione fatti da un grosso venture capital. Ecco, problema fondi, appunto, investimenti, dove siete andati a cercarli? È stato facile? Sì, in realtà quella è sempre una delle cose più difficili quando uno inizia, e diciamo sempre si deve iniziare da questo friends and family, quindi persone che magari ti conoscono, che possono dar soldi perché sanno comunque che vali, eccetera. Poi man mano andare, dopo aver preso un po' di soldi da Friends and Family, si può andare da Angels. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Vincenzo Belpiede, 31enne startupper in California. Un percorso professionale dall'Italia agli Stati Uniti, quello di Vincenzo, passando per la Finlandia. Poi l'intuizione che si può fare se si ha l'idea giusta, e lentamente la sua idea imprenditoriale Made in USA gli apre anche le porte di una riconnessione con l'Italia. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Nel frattempo, 2 anni dopo l'inizio dell'avventura, siete approdati sull'App Store, avete firmato contratti con scuole e università, ma c'è anche un aspetto molto interessante, che state in qualche modo tornando in Europa e anche in Italia. Vedi in futuro un riavvicinamento sempre maggiore al tuo paese, ovviamente professionalmente parlando? Sì, spero di sì, è il mio paese, poi vedo non solo l'Italia, quando vedo l'Italia vedo tutta l'Europa, che secondo me ha tantissime potenzialità. Quindi adesso passo parecchio tempo tra Belgrado, dove abbiamo parte del team, in Serbia, e Roma, dove abbiamo degli investitori, dei customers, dei clienti, Comunque stiamo cercando di espanderci comunque in Europa, perché ci sono tante potenzialità di portare ciò che fanno le università americane, che sono più avanti di tutti al mondo in termini di raccolta fondi e gestione dei laureati, riportare quegli apprendimenti anche in Europa. Vedi un contesto che sta diventando più favorevole a voi start-up anche nella penisola in qualche modo, o no? Sempre meglio, sono venuto qui per vedere un attimino gli incubatori, mi ha lasciato molto ben impresso lui, Sen Labs a Roma. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Non vedo ancora abbastanza spazio per i giovani, per la meritocrazia. Secondo me se ci fossero più appunto rispetto per queste due tematiche andremo molto più avanti. L'altro tema, magari il terzo tema, è il fatto di espanderci molto di più da un punto di vista internazionale, attrarre più talenti dall'estero, come fa l'America, e quindi avevo visto dell'Italia Startup Visa, ma bisogna renderlo ancora più facile, bisogna proprio promuoverlo ancora di più. Ci raggiunge ora in linea Marco Trombetti, startupper e investitore in Italia. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio. Investo volentieri in giovani imprenditori italiani che hanno il senso del give back e vogliono far crescere l'ecosistema mettendo le loro competenze al servizio della creazione di nuove aziende ancora più importanti. Così Marco hai motivato a giovanitalenti@radio24.it la tua scelta di investire nella startup di Vincenzo. Allora ti chiedo, quanto è importante questo mondo di giovani connazionali che stanno cominciando a riportare a casa le proprie conoscenze? Quanto si sta ingigantendo? Non vorrei esagerare, però l'affermazione semplice è che il capitale umano è tutto. Nel mondo del futuro, nell'economia del futuro, il capitale umano è quello che muove un po' tutto. Quindi qualcuno che rientra in Italia porta esperienza, e questa esperienza che porta indietro vale molto di più di quello che abbiamo perso quando l'abbiamo lasciato andare, e dove portava via delle esperienze universitarie che aveva fatto e andava via. Tornando indietro porta di qualcosa ancora più grande, per cui questo flusso è veramente importante e dovremmo supportarlo. Quello che stai dicendo è molto importante, è una considerazione che sottoscrivo in pieno. Chi torna è sicuramente più ricco di chi parte, speriamo ne tornino sempre di più. La tua storia è molto interessante, la parola chiave per comprenderla è Translated, azienda di cui sei amministratore delegato e di cui Google è partner. In brevissimo, com'è nata Translated, ma cos'è soprattutto? Ora, ho fondato Translated quando avevo 23 anni. Studente, stavo finendo l'università e a causa di questa bella iniziativa sono quello che chiamano un dropout, cioè qualcuno che ha lasciato l'università per fare business. Translate è semplicemente un'agenzia di traduzione online, cioè collega delle persone che hanno bisogno di tradurre dei testi con dei traduttori professionisti, degli umani, non delle macchine, degli umani che possono fare la traduzione. Tu sei un imprenditore seriale e anche investitore in startup. Perché sei rimasto in Italia? Perché non sei andato anche tu in California, in Silicon Valley? Guarda, sembra strano, però per una questione di pura opportunità. Andare a lavorare in California per me è un po' come andare a lavorare in una bellissima grande azienda, no? Cioè un modello bellissimo che funziona, no? Però forse mi piace di più lavorare a quella startup chiamata Italia. Vedi in questa startup chiamata Italia un sistema, un ecosistema imprenditoriale innovativo che si sta sviluppando, che sviluppandosi farà cambiare pelle al nostro paese? C'è sicuramente, e questo sta succedendo rapidamente, quindi c'è un ecosistema in forte crescita. Un'azienda chiamata CB Reports dice che l'ecosistema in Europa con più forte crescita, quindi per una volta stiamo andando bene, partiamo da dei volumi piccoli però cresciamo molto rapidamente, quindi io vedo assolutamente questa opportunità concreta. Recentemente hai lanciato MateCat, già premiato come miglior tecnologia nell'industria della traduzione, ma ti faccio un'ultima domanda che riguarda come lavori, perché dici: col 10% dei profitti della mia azienda ho investito in altre startup che hanno l'ambizione di cambiare il mondo. Come le selezioni e quanto spesso ti imbatti in giovani imprenditori italiani all'estero come Vincenzo? Tramite raccomandazione, nel senso buono non del all'italiana termine. Non all'italiana, nel senso buono del termine. Significa che altre aziende, altre startup in cui ho investito, i fondatori che hanno un network mi informano di altre eccellenti opportunità che ci sono, così come allo stesso modo altri investitori con cui abbiamo fatto investimenti insieme. Ognuno di noi, no, cerca di tenere un po' di radar su quello che sta succedendo. E quanti giovani italiani trovi all'estero? Tantissimi, tantissimi. Come dire, c'è tanto da lavorare per riuscirli a riportare a casa, quindi dobbiamo creare qui delle opportunità migliori di quelle che hanno altrove, però è un bacino enorme che ci servirà soprattutto per una cosa successiva che si chiama lo scale up. Cioè oggi noi qui possiamo fare delle bellissime piccole startup, però dobbiamo riportare a casa persone con esperienza per fare aziende billion, aziende da un miliardo. Grazie a Marco Trombetti, in bocca al lupo. E domanda diritto per Vincenzo Belpiede: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Intanto, più che espatriare, diciamo viaggiare, scoprire il mondo, così come facevano i nostri antenati da Marco Polo a Cristoforo Colombo, senza mai perdere la bici, pensando che questo è sempre fondamentale per la nostra crescita personale e anche come nazione, appunto, come diceva Marco. Visto che il mondo oggi è sempre più globale, ci tocca girare e andare in giro per tutto il mondo. E poi direi molto di partire più dall'Europa, quindi ho avuto tantissimi ragazzi che mi hanno chiesto appunto come si fa a venire in America, è più difficile, sfruttiamo l'Europa, abbiamo il passaporto europeo, sono tante nazioni dove possiamo imparare meglio l'inglese, esercitarci, diventare più forti per poi andare anche in altri mercati internazionali, appunto come l'Asia, l'America, eccetera. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un ingegnere del software per lo European Bioinformatics Institute a Inkston in Gran Bretagna, scadenza per i CV 14 febbraio, info su embla.org/jobs. Un media officer per BirdLife Europe nella sede di Bruxelles, scadenza per i CV domani, curricula a recruitment.europe@birdlife.org. E infine un astronomo all'ESO, lo European Southern Observatory di Garching in Germania, scadenza per i CV 15 febbraio, info su jobs.eso.org. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi, come ogni ultimo sabato del mese, spazio alle vostre lettere e riflessioni, quelle che inviate settimanalmente alla nostra casella email giovanitalenti@radio24.it. Continuate a scriverci. Ascoltiamo ora il contributo di Giulia, giovane emigrata, il cui successivo rientro in Italia è stato coronato da successo. Sentiamo come. Una laurea in giurisprudenza a pieni voti e abilitazione all'esercizio della professione forense, specializzazione in intellectual property e ancora più in dettaglio nella tutela di marchi e domain names. E tralascio tutte le esperienze lavorative accumulate dalla maturità in poi, tutte inanellate con puntuale coerenza. Era quanto credevo mi avrebbe permesso di intraprendere un buon percorso professionale e di vita, nonostante la particolarità del momento storico, per dirla con un eufemismo. Naturalmente è stato facile verificare quanto mi sbagliassi. Ho iniziato a chiedermi se fosse giusto spendere così tante energie in una realtà incapace di contribuire alla vera realizzazione di chi la abita. Partendo dal presupposto che se si continua a fare ciò che si è sempre fatto, si otterranno sempre gli stessi risultati, ho deciso di cambiare le carte in tavola. E senza metafore. Tolti i panni di avvocato, ho messo quelli di cameriera. Avrei dovuto imparare un lavoro pratico, l'unico utile, quando mi sarei trovata in Australia. Volevo vedere con i miei occhi cosa sarebbe successo, che cosa avrei fatto, come mi sarei sentita e se mai una società diversa mi avrebbe permesso di realizzare qualcosa in cui potermi identificare. Là, sotto al mondo, sono trascorsi i mesi lucidando posate, imparando menù, apprezzando sempre di più il mondo della ristorazione. Il tutto mentre distribuivo CV in law firms, dove avrei potuto lavorare al massimo come segretaria. Al di là di quello, era il contesto globale di quel paese ad essere più generoso, ed era questo ciò che importava. Nel giro di un anno mi sono trovata a lavorare come assistant manager in un ristorante del centro di Melbourne e a rivedere contratti nel dipartimento di banking and finance di una law firm australiana. È stato come avere delle conferme sulla diversità di due mondi, ma io volevo ancora mettere alla prova il mio. Sono tornata in Italia e da un anno lavoro nel dipartimento legale di una multinazionale. È chiaro che l'esperienza raccolta in Australia ha aggiunto valore alla mia preparazione ed è altrettanto chiaro che tornando ho riposto fiducia nel sistema di cui faccio parte. Non so se i fatti mi stiano dando ragione, forse la fase della valutazione critica e costruttiva rimarrà sempre aperta. Un motivo per restare o tornare. Dall'infrastruttura di calcolo agli stage per studenti universitari e ricercatori in aziende italiane all'estero, sono 5 i progetti di ricerca per oltre 30 milioni ammessi al finanziamento dal CIPE sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca. Tra i progetti il High Performance Data Network, iniziativa che punta a realizzare un'infrastruttura di calcolo dove fare formazione a giovani laureati e dottori. Ma soprattutto è partito il progetto triennale Go For It, destinato a 40 studenti e ricercatori. Sosterranno stage negli hubs dell'innovazione mondiali come la Silicon Valley. Lo scopo? Superare la fuga dei cervelli e lasciare che gli studenti vengano reinnestati, facendo sì che imparino il meglio dalle grandi aziende tech globali, riportando poi innovazione in Italia per scegliere se fermarsi qui o tornare all'estero. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire a blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Nuova Università. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di gennaio. Per l'università, internazionalizzazione e merito diventano le parole chiave di una strategia di rilancio che passa anche dal ricambio e dallo svecchiamento della classe docente. Questa che avete ascoltato, una delle priorità politiche individuate dal Ministero dell'Istruzione nel 2016. Sarà davvero la volta buona? Ci credete? Riusciremo ad avere finalmente atenei dove le baronie cederanno il passo all'attrazione dei cervelli? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum, scriveteci giovanitalenti@radio24.it. E vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi, aspettiamo voi, giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.